Tamà aveva l'aria dolce e familiare che le conosceva. Indossava ancora il vestito nazionale, ma di cotone ora, a fiorami bianchi e azzurri, come quello di una contadinotta qualunque. Dai piegoni incrociati sul petto, il bel collo sorgeva morbido come crema. Vedendo Aiwan, il volto le si imporporò e gli occhi guardarono lieti e amici. Desidera venire, pensò Aiwan, e più che mai quel pensiero lo rallegrò, non aveva quasi più parole. Ma dopo lo scambio dei convenevoli anche lui si calmò. Non erano forse vecchi amici che avevano vissuto per tanto tempo insieme in quella casa? Dove sono i bastoni, Bungee? Domandò Tama. Ecco qua la nostra colazione e delle suole di panno da applicare alle nostre di cuoio per non scivolare sulle rocce. Partirono come fratelli con la sorella. Ad Aiwan i pensieri che lo avevano assillato negli ultimi pochi giorni parevano ora sciocchi e irreali. Ella era troppo sana, naturale, libera per innamorarsi di lui. Le ragazze innamorate, ricordava senza volerlo ciò che Aiko gli aveva raccontato sulle ragazze innamorate, Tamaha non pensava affatto a lui. Per un momento quel pensiero lo depresse, pensò che se lo amava davvero non avrebbe dovuto avere quell'aria sana e allegra, ma era impossibile soggiacere a lungo in una giornata come quella a pensieri non lieti. I contadini erano nei campi a lavorare e salutavano al loro passaggio. Bambini li rincorrevano ridendo, le verdi colline erano luminose di sole. Da quando sono arrivato in Giappone non mi è ancora capitata una così splendida giornata, disse Aiwan. Giornate come queste non sono frequenti nemmeno nel Giappone, disse Tama, né credo altrove nel mondo. Era una di quelle giornate in cui tutto pare bello, giusto e intonato, col radiante sole nell'aria senza vento. Passavano davanti a un continuo mutar di scene e ciascuna era un quadro più bello del precedente. Era di primo mattino, avevano superato i campi ed erano ormai ai piedi delle colline. Raggiunsero un punto dove la strada faceva una brusca svolta verso l'interno. Un ruscello cascava in una specie di gran vasca e una contadina nuda faceva il bagno con l'acqua alle caviglie, i lunghi capelli neri annodati sul capo. Aiwan se la trovò inaspettatamente davanti e non poté non fissarla. Ma sebbene fosse subito preso da un senso di vergogna per lei, non notò il minimo segno di imbarazzo nei grandi occhi scuri. La ragazza li guardava con la più innocente meraviglia e anzi lietamente li salutò. Bungee non parlò e rispose Tama. Poi la ragazza gridò: "Dove andate?" E Tama di rimando: "Alle sorgenti calde." "Oh, bella giornata per una gita." Procedettero. Ora Iwan si vergognava davanti a Tamà, ma Tamà disse con perfetta letizia: com'era carina, con l'acqua alle caviglie, nell'acqua limpida, è tutta bagnata. Carina davvero, convenne Bungee. Anche ad Iwan, dopo quelle semplici battute, il particolare non parve più ostico. Non capiva bene, ma il grazioso episodio si inseriva, esso pure, senza urti, nella perfezione della giornata. Verso mezzodì raggiunsero la cima del monte dove c'era un'osteria e nell'osteria i bagni termali caldi. Aiwan pensò tra sé: se Tama fa il bagno con noi, e rievocò l'immagine della graziosa contadinotta nuda. Per un attimo fu tutto in preda alla sua immaginazione, come investito da un'onda di musica in attesa, sentì vampe al viso. Avrebbe voluto che Tama prendesse il bagno con lui e non avrebbe voluto domandarlo a Bungee. Non era neppure in grado di rispondere al suo chiacchierio. Tama li aveva salutati con un cenno della mano ed era andata in una direzione mentre lui e Bungee andavano in un'altra. Se avesse veduto Tama nella gran vasca dell'acqua fumante e azzurrina, tutta scintillante di bollicine argentee, sarebbe stata quella la più bella vista del mondo. Desiderava e temeva gli fosse esibita, ma avrebbe potuto non guardare Tama. Ma quando con Bungee uscì dalla cabina, già massaggiato e bagnato, Tama non c'era. Entrarono nella vasca, Bungee gridò gioiosamente: "Ah, ti sei mai sentito così? Non ti senti leggero, leggero e pulito?" "Ah, oh, splendido!" disse Aiwan. Giocarono come ragazzi, buttandosi gran spruzzi d'acqua, ma nell'intimo di Aiwan dominava un sentimento d'attesa. Tama non venne. E quando finalmente lasciarono la vasca e dopo essersi vestiti uscirono nel giardino, la trovarono che lì aspettava. Era rossa in volto, aveva i capelli bagnati, si vedeva che aveva preso il bagno anche lei. Buon bagno? Le domandò Bungì. Oh sì, rispose Tamà, l'ho fatto in una piccola pozza d'acqua tutta per me. Eh sì, così doveva essere. Aiwan era contento che fosse andata così, si sentiva sollevato che Tamà si fosse tenuta in disparte. Dopotutto, lui non era giapponese. Un senso di felicità lo prese, si sentì forte e rianimato e non sapeva neppure lui perché. Altre volte gli era capitato di sentirsi leggero e allegro, altre giornate aveva vissuto sotto un sole come quello, vivace e lieto. Ma oggi tutto pareva più perfetto di quanto mai gli fosse apparso in passato. L'aria montana era fina, chiara, l'osteria pulita, il vecchio oste dalle gambe nude era un modello di cortesia. Divertitevi, signori. Raccomandò, mentre io preparo la colazione. Quei pietroni curiosi che vedete là, li ho portati io quassù dal mare. In attesa della colazione e in obbedienza alla raccomandazione dell'oste, si misero a correre fra le pietre del giardino, esprimendo con infantili interiezioni la loro meraviglia davanti alle strane forme lavorate dall'acqua. Tutto era motivo d'allegrezza. La pietra, che l'acqua aveva come scolpita, così da ricordare un volto astuto. Il granchio nella polla d'acqua sorgiva, che arrancava per sottrarsi ai loro sguardi, specialmente le battute umoristiche di Bungee. Ridendo, Tamà e Daiwan si guardavano. A tutta prima i loro occhi si incontravano per dirsi semplicemente che sciocchezza. Ma quegli incontri erano così piacevoli che Aiwan non trascurava occasione per fissare gli scuri occhi della sua compagna. Guardandola, il giorno e le cose si esaltavano, per così dire, in una nuova perfezione. Una voce li chiamò. La colazione era pronta. Il vecchio oste aveva collocato un tavolo in un angolo della stanza e tutti sedettero. L'oste sostò un momento. Ho aspettato che veniste, disse, per finire la decorazione della stanza. Guardate. Aspettò che i loro occhi fossero rivolti verso di lui e scostò un paravento. Ed ecco, come in un quadro, il fianco della collina tutto acceso dagli ardenti colori degli aceri rossi e rosa contro il chiaro cielo azzurro. Gli occhi di Aiwan corsero a quelli di Tamà che aspettava quello sguardo. Ora gli occhi di Tamà non erano più ridenti, erano morbidi e un po' vergognosi. Com'era bella! Aiwan sentì il cuore che gli batteva forte nel petto mentre il sangue gli affluiva al viso. Per nascondere il suo turbamento parlò. Sedete qui, Tamà, disse, di qui vedrete bene. E spostò il cuscino in un punto di dove si poteva scoprire il fianco della collina. Siedo dove volete voi, rispose lei. Quella docilità gli diede quasi le vertigini. Tamà di solito non era così, ella aveva un suo modo chiaro e fermo di fare quello che voleva e di disporre anche le minime cose come meglio le talentava. Ora si inginocchiò sul cuscino. La vista della sua testa liscia e corvina, china davanti a lui mentre si inginocchiava, lo fece ammutolire. Bungì faceva il matto, aveva afferrato i bastoncini e fingeva d'avere fame, tendendo la ciotola e mendicando come un vero pezzente. Ma Aiwan ora non poteva più ridere, ora tremava perché c'era Tamà inginocchiata lì davanti e intenta a maneggiare le ciotole e le tazze, sorridente sul basso tavolino. Solo a tratti alzava gli occhi e guardava la collina. Aiwan pensava a qualche cosa da dire, a un verso da recitare, a qualche antico detto, tutto invano. Non poteva pensare, aveva la testa vuota, non vedeva e non sentiva che Tamà. Stupidamente disse: Non è bello, Tamà. E pensò: Sono così stupido che lei mi odierà. Che cosa mi piglia? Ma Tamà assentì gioiosamente col capo e di nuovo i loro occhi si incontrarono in una profonda occhiata. Poi Tamà prese la propria ciotola, la riempì del riso bianco bollente e gliela porse. Egli la prese con ambe le mani e di colpo, quell'istante, fu per essi pieno di significati profondi e indefinibili. Tamà, cominciò. Pronunciando il suo nome gli parve che un razzo salisse nel cielo e scoppiasse in mille stelle luminose. Era certamente lei che rendeva meravigliosa la giornata, era lei che trasformava tutto in bellezza. Quella scoperta lo rese grave, ebbe quasi paura, ma non aveva forse tanto aspettato proprio quella certezza? Per tutta la strada del ritorno, Bongi lo assillò di domande. Cos'hai, Aiwan? Sei diventato tranquillo come un vecchio. Tama, il vecchio delle montagne, lo ha stregato. Non dire questo, Bungi, disse Tama. Nella montagna ci sono davvero degli spiriti. Scendevano rapidamente i gradini rocciosi del sentiero tagliato nel fianco della collina. Tama li precedeva. Da quando avevano lasciato l'osteria, li aveva sempre preceduti. Aiwan osservava attento il suo svelto incedere e quel suo passo fermissimo. Non c'era pericolo che Tama scivolasse sui gradini, a differenza di Bungi, il quale invece camminava incertissimo sulle pietre smosse e coperte di muschio. Ai piedi calzava i grossi scarponi che gli erano serviti durante il servizio militare. Il solo beneficio che ho avuto da quell'istruzione, aveva detto quella mattina incamminandosi, sono queste scarpe. Bungi, non scherzare, disse Tama, è dovere di ogni uomo essere pronto a combattere per il proprio paese. Oh, non combatterò mai nessuno, disse con truculenza Bungi. Combatterai se lo dovrai, ribatté con sicurezza Tama, e parlò degli spiriti che abitavano la montagna. Non ci crederete mica, spero, domandò Aiwan. Lei si voltò e si ravviò i capelli. Il sole e il vento le avevano arrossato la faccia. Ci credo, rispose. E ti fai chiamare una moga, rise Bungi. E lo sono, infatti. Ma io agli spiriti ci credo. E allora non sei una moga, insistette Bungi. Lo sono, esclamò Tama allontanandosi di corsa. Correva giù per i gradini con le gonne al vento. Improvvisamente Aiwan si diede a rincorrerla nella gloriosa luce meridiana. Dietro di lui sentiva gli scarponi ferrati di Bungi che seguiva, ma il passo di Aiwan era diventato svelto e sicuro come quello di Tama. Correndo guadagnava terreno su di lei ad ogni salto. Ella se ne accorse, si fermò e lo affrontò. Egli, lanciato nella corsa, non fece in tempo a fermarsi. Tama allungò un braccio e lo trattenne con pugno sicuro. Come correte? Ansimò Bungi sopraggiungendo, e tutti risero di nuovo. E ad Aiwan parve lecito, approfittando della generale allegria, tenere per un momento nella sua la mano di Tama. Rideva coi due compagni, ma tutti i suoi pensieri erano per la mano che stringeva così ferma e morbida. Improvvisamente si sovvenne di Peonia che qualche volta gli insinuava la mano nella sua. No, quell'altra mano non somigliava affatto a questa. Era quella di Peonia, esile, affilata e sottile, il palmo era caldo, le dita vibranti. Una volta aveva detto a Peonia: La tua mano mi fa pensare a un uccellino che presi una volta. Trema. La mano di Tamà invece era forte e fresca. Nella sua non si piegò né si chiuse. Contraccambiò la stretta e prima che egli se ne rendesse ben conto si ritrasse. Ripresero a correre e quasi senza accorgersene furono ai piedi del monte. Ecco il capolinea dell'autobus. Ho di nuovo fame, sbadigliò Bungi. Ah, mi dolgono le gambe. E le vostre, Tama, vi fanno male? Domandò Aiwan. Ella scosse il capo. Oh, sono abituata a camminare, rispose con la sua voce tranquilla, ma era vispa e allegra. Aiwan sentì che era colma di una specie di intima felicità. Vi è piaciuta la giornata? Domandò. Sì, rispose lei in fretta. È stata la miglior giornata della mia vita, disse Aiwan. E rimase in attesa di una parola di lei, vedendo che taceva, domandò: E per voi? Io non so che cosa questa giornata sia stata nella mia vita, rispose Tamà, ma certo è stata una giornata diversa dalle solite. Prima che Aiwan avesse potuto aprir bocca, arrivò sferragliando l'autobus. Tutti salirono e in un attimo furono di nuovo a casa. Nella casa dei legni lisci e non dipinti, circondata dai pini del giardino. Le luci splendevano per l'ace attraverso i paraventi di carta di riso. Finita, La giornata era finita e tuttavia era come se dovesse durare in eterno. Aiwan trovò in camera una lettera per lui. Era di suo padre. Non la volle leggere subito e la mise in disparte. Non era lettura quella che si intonasse con quella giornata, con una giornata che gli aveva dato la conoscenza di se stesso. Amava Tamà, voleva sposarla. Ora che sapeva, ora che ne era certo, si meravigliava della sua stupidità e malediceva la sua lentezza. Come mai non aveva avuto quella certezza sin dal suo primo incontro con Tamà? Mio padre, gli disse Bungee il giorno dopo, è adirato con Tamà. Aiwan, seduto alla sua scrivania, sognava ancora la giornata di ieri. Quella notte si era svegliato per ascoltare la pioggia che scrosciava sul tetto. Piovesse pure, aveva pensato, disteso al buio. Ormai non importava più nulla. Anche lei sente la pioggia, aveva pensato poi. E ascoltando in uno stato di profonda, intima felicità, si era addormentato. Svegliandosi aveva trovato il minuscolo giardino davanti alla sua camera verde e gocciolante di frescura. Anche lei vede, pensò. Non vedeva l'ora di incontrarsi nuovamente con lei. Domandare di lei non poteva, sarebbe stato scorretto. È stanca e dorme, pensò. Mentalmente ne vedeva il visino abbronzato, abbandonato sulle morbide coperte a fiorami. Quando egli e Bungee uscirono di casa, veniva ancora giù una pioggia rada e obliqua, e una domestica consegnò loro, con un profondo inchino, larghi ombrelli di carta oleata. Il sogno del giorno innanzi non era ancora svanito. Aiwan ora doveva mettere in atto i suoi progetti, doveva avanzare le sue proposte al signor Muraki, non direttamente, bensì per mezzo di un intermediario. Seduto alla sua scrivania, era andato rimuginando fra sé. Doveva o non doveva dirlo a Bungee? Proprio allora Bungee parlò. Aiwan, al nome di Tamà, trasalì e alzò gli occhi. È in collera con Tamà? Sì, disse Bungee, ma me lo aspettavo, sai. Parlando, faceva scorrere con sonori schiocchi le palle del pallottoliere, segnando cifre sul taccuino con mano svelta. Gli dispiace che sia venuta con noi ieri, continuò. La strapazzata ieri sera, una ramanzina le ha dato, proprio coi fiocchi. Gli occhi gli danzavano nell'orbita. Stamane posso riderne, ma non ridevo ieri sera perché anche a me è toccata la mia parte di rimbrotti. Strinse le labbra e soggiunse: La lezione, devo dire, l'ho capita. Che cosa intendi dire? Domandò Aiwan con le guance che gli scottavano. Mio padre ha deciso di affrettare il matrimonio di Tamà col generale Sekhi, il quale dal canto suo dichiara di non poter aspettare più a lungo. Aiwan sentì la testa che gli girava. Ma Tamà, guarda un po', non lo sposerà neppure fra 1.000 anni, soggiunse Bungee con dolcezza. Contò alcune migliaia di yen sul pallottoliere e segnò le cifre sulla carta. Quei ninnoli d'avorio che abbiamo mandato in America, disse, erano 15.000 pezzi? Tamà non lo vuole sposare? Ripeté Aiwan con la bocca asciutta. Oh, è una vecchia storia. Disse Bungee. Nessuno di noi è entusiasta, neppure mia madre, la quale tuttavia, essendo stata allevata all'antica, non osa esprimere il suo pensiero, ma si è semplicemente limitata a rinviare la data. Quando mio padre comincia a dire adesso è proprio ora che prendiamo una decisione, lei trova sempre qualche scusa, dice oh, adesso ho tanto da fare, tutte le tramezze devono essere pulite, tanto che converrà aspettare fino al mese prossimo. Ma la cosa si fa sempre più difficile. Fino al mese prossimo, mormorò Aiwan. Oh, Tamà non mollerà mica, si ucciderà piuttosto, naturalmente, disse allegro Bungee. Tutti lo sappiamo, ma mio padre non vuol crederci. Sotto quelle sue apparenze bonarie è di una ostinazione, ma Tamà è ostinata quanto lui ed è proprio questo a cui mio padre non vuol credere. Bungee aprì un cassetto e ne trasse un altro libro di conti. Vuoi dire, di fronte a questo tu... balbettò Aiwan. I cruci d'amore oggigiorno sono molto comuni, osservò ridendo Bungee. In tempi come questi quasi tutti i giovani d'ambo i sessi hanno pasticci amorosi. I vecchi vogliono averla vinta a modo loro e i giovani vogliono l'amore. Solo io, di nuovo rise. Io non ho cruci, io non sono innamorato. Aiwan una volta tanto non rise con lui. E come mai questo Sekhi fra tutte le donne vuole proprio Tamà? Domandò. È persona influente e danarosa, rispose Bungee facendo schioccare le sfere del pallottoliere. Razza di samurai come mio padre, o onore del Giappone e simili ritornelli. Vuole una moglie che gli dia dei figli, una moglie giovane. E Tama ha salute, ecco perché la vuole. Mio padre, dal canto suo, dice che farà bene al paese unire il sangue di Seki alla salute di Tama. I vecchi, te l'assicuro, adorano la patria e l'imperatore. Credi? Mormorò ancora Iwan. Non credo e non penso niente, disse in fretta Bungee. Ti assicuro, Iwan, che non penso a niente, non serve. Quando ero a scuola, alcuni miei compagni cominciarono a pensare e non li ho più riveduti. Un giorno entrarono in classe dei soldati, soldati di Seki, bada, e li portarono via. Seki non vuole gente che pensa, perciò ho deciso di godermi la vita. Aiwan evocò le facce occhialute e piuttosto stupide degli studenti che quotidianamente incontrava per via. Che cosa mai poteva esserci sotto quelle maschere? Vuoi forse dire, domandò, che qui ci sono dei rivoluzionari? Shh! Uscì con un mormorio strozzato Bungee. Non pronunciare quella parola! Potresti essere udito! La porta era chiusa, ma egli si alzò, l'aprì e guardò fuori. Non passava nessuno. Non parlo di simili argomenti, disse in fretta, né ascolto chi me ne parla. Ho il mio lavoro da fare io. Tornò a sedere e riprese a lavorare di buzzo buono. Aiwan tornò anche lui ai suoi libri, sbalordito. I pensieri gli ridavano nel cervello. Improvvisamente si alzò, accattando una scusa per tornare a casa a vedere Tamà. Voleva dirle, ah, perché non le aveva parlato di più il giorno prima, ma la felicità lo aveva come sopraffatto, fu quindi costretto a rivolgersi di nuovo a Bungee. Bungee, posso... Vuoi aiutarmi a vederla oggi? Debbo vederla. Bungee alzò gli occhi. Tamà? Domandò. Mio padre le ha ordinato di restare chiusa in camera sua per 3 giorni. 3 giorni, ripeté Aiwan. Non poteva vedere Tamà per 3 giorni. No, non è la prima volta che le infligge una punizione simile, disse Bungee. Lo scorso inverno Tamà disse a mio padre che obbediente avrebbe sposato il generale Sekima, che dopo si sarebbe uccisa. Mio padre non credette certo a quanto diceva, ma la punì ugualmente, tant'era in collera. Fu quella la volta che dicesti che stava male? Esclamò Aiwan ricordando. Sì. Fu quella volta, disse Bungee. Tamà non disobbedisce nelle piccole cose, solo nelle grandi disobbedisce, come per esempio nella faccenda dello sposare Seki. La porta si aprì. Entrò Akio. Aveva un'aria triste e stanca, abituale in lui. Eccoti una lettera dell'agente di Parigi, disse a Bungee. Si lagna che i basamenti di ebano per i cavalli di porcellana di Han sono arrivati in pezzi. Li avevi imballati, come ti avevo detto? In paglia di riso tritata, disse Bungee balzando in piedi. Ti avevo detto di avvolgerli prima in stracci di seta. Oh, me ne sono dimenticato, disse Bungee costernato. Ah, disse Akio, me lo ero immaginato, e così ci toccherà sostituirli. Centinaia di yen perduti. Oh, roba da spararmi, mormorò Bungee. Sono un perfetto disutilaccio. Ridi troppo, disse Akio. Uscì, richiuse la porta. Bungee sedette e si prese il capo fra le mani. Non varrò mai niente, disse con aria contrita. Sempre dimentico le cose importanti. Akio me lo aveva detto, ma probabilmente avevo la mente altrove. Credi che possa vedere Tamà in qualche modo? Domandò bruscamente Aiwan. Bungee lo guardò sbalordito. Che vuoi dire? Oh, debbo vederla. Ma per quale motivo? Bungee era sempre più disorientato. Non vuoi mica. Non sei mica. Balbettò. Lo sono, ora non ho più dubbi, disse Aiwan. Bungee rimase a bocca aperta, poi cominciò a ridere forte. Aiwan lo lasciò ridere. E poi domandò freddamente: perché ridi? Curiosa, disse Bungee, mezzo soffocato dalle risa. Curiosissima! Pensare che la nostra casa è un nido di pasticci amorosi. Akio, Tamà, tu e quel povero vecchio, tutti in ballo, anche mio padre, lui, l'aspirante dittatore. Non è affatto curiosa, negò ancora freddamente Aiwan in attesa che Bungee si chetasse. Beh, disse finalmente quello. Se vuoi sollecitare l'affare Sechi, tenta di vedere Tamà e basta. Aiwan esitava. Voleva dire qualche cosa, ma l'espressione di Bungi lo dissuase. Dalla finestra scorgeva l'onda lunga del mare grigio, quella mattina sotto il cielo grigio. Doveva pensare, ma per quanto si stillasse il cervello, per tutta la giornata non venne a capo di nulla. Una sola cosa sapeva. Era innamorato di Tamà.